Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sosso 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Adesso aver toccato quota 102 rappresenta veramente qualcosa di straordinariamente speciale. Ringraziare il tifoso juventino perché quello che ha fatto oggi è quello che ha fatto sempre nei miei confronti, sia da quando ero calciatore che quando sono tornato come allenatore, è sempre qualcosa veramente di speciale, no? Nei miei confronti io cerco di dare tutto a me stesso per cercare di ripagare questo affetto. Non ci lasciare, Pardo, non ci lasciare. No, non vi lascio, ma certo che no, no. Come va? Bene, tu? Bene, bene. Ci siamo divertiti, Anche Franco Piantanida, autore di questo programma, Claudio Aschetto della redazione, Filippo Aureggi oggi in regia. Senti, normale come solo nel mondo dello sport i milionari possono essere presi a calci nel sedere dai peones. L'Atletico Madrid sabato, nel basket di Maccabi Tel Aviv ieri, a dimostrazione, ma questo vale anche per Conte, che l'estratto Conto da solo non basta per vincere le partite, i campionati e le coppe. L'estratto Conte, no, beh, sicuramente poi ci sono delle volte vince di più la razionalità e quindi l'estratto Conto, altre volte vince di più, diciamo così, il colpo d'ali, sì. E quindi la sorpresa. Vediamo come va sabato prossimo, con le due spagnole, con Carletto Ancelotti che segue la decima. Comunque, a chiudere il campionato dei 1000 record juventini, anche qui solo nello sport può succedere, è un rigore che il Torino sbaglia. Per la precisione, 4 minuti dopo la fine ufficiale del campionato, quarto minuto di recupero a Firenze, e Cerci, sbam, se lo va a parare, e il Parma va in Europa. Parma, Cassano, vedremo se Donadoni, questo è ancora da vedere, vanno ai preliminari dei preliminari dei preliminari di Europa League. Viene la tiki-taka stasera. Viene la tiki-taka stasera, Mauri. Maurizio, smesso di piangere. Spero, insomma, per le ore 23:30 su Italia 1, pensate. Se ne sarà fatta una ragione, insomma, della sua gioia. Il Milan oggi ha presentato invece un corso a presentazione ufficiale della sede nuova, come da pronostico va fuori dall'Europa dopo 16 anni. Non è necessariamente un male se si deve ripartire. Ti ricordi l'altra volta com'era finita? L'altra volta quando? Che era 16 anni fa, quando è arrivato fuori dall'Europa. No, no, non è un male, però io questo punto di vista lo considero provinciale, e quindi penso che sia una grande sconfitta il fatto di non essere andati nemmeno in Europa League. Ne sono certo, no? Sì. Non c'è una correlazione assoluta. È chiaro che, insomma, che qualche impegno in meno ti può dare un vantaggio, ma se tu hai una squadra come quella del Milan, una rosa profonda come quella del Milan, più partite fai, quasi meglio è, o comunque, insomma, le partite possono diventare anche un'opportunità, non per forza un problema. Quindi sì. Comunque, per la cronaca, 98-99 finì con Zaccheroni che festeggiava lo scudetto, quindi questo, se vogliono i milanisti, può essere di buon auspicio. Intanto da oggi comincia la rumba di tutti quelli che devono cambiare panchina, cambiare casa, eccetera eccetera. Ma la Juventus, come la vede la Juventus? Abbiamo sentito prima plebiscito popolare, no? Incoronazione di Conte da parte del pueblo bianconero, anche qui è una roba molto da libro cuore. Chissà se hanno gradito alla Juve, società. Ma allora, il sospetto che non abbiano gradito c'è sempre, perché sappiamo che la Juve certi personalismi magari non li apprezza molto, no? La Juve ha l'ambizione di essere più forte dei suoi campioni e dei suoi personaggi. Quindi da questo punto di vista, paradossalmente, potrebbe non aver gradito. In generale, però, questa è un'eccezione. Cioè, qui non siamo di fronte a Del Piero, che ormai era un corpo estraneo per un pezzo di società e che è andato a giocare in Australia. Qui siamo di fronte all'allenatore che comunque ha costruito i successi degli ultimi 3 anni. È chiaro che la società non vuole farsi prendere, no, per il bavero da Conte, con richieste mostruose, assurde dal punto di vista del mercato, però è anche chiaro, insomma, secondo me, che vorrebbe continuare con Conte, cioè ha lei stessa la necessità di cercare un compromesso. Quindi io non credo che poi sia stata così tanto colpita dall'affetto e così tanto infastidita. Beh, previsto, dall'affetto. Dai. Era da mettere in preventivo questo a cornice coronale della festa, soprattutto, insomma, è chiaro che l'argomento di questi giorni non è lo scudetto della Juventus, ma è il futuro della Juventus. Dato che abbiamo degli ascoltatori molto attenti e molto preparati, c'è chi, abbiamo sentito gli Oasis prima nel montaggio di Piantanera, sulle parole di Conte, dei tifosi, sui canti dei tifosi, eccetera. C'è chi invece per la Juventus futura propone non gli Oasis, ma gli Iron Maiden, Fear of the Dark. Traffico. Lasciarli, quei ragazzi. un grande abbraccio a tutti e vi ripeto, godiamoci la festa. Tutti convocati. C'è chi scrive via SMS, a proposito, tutti a raccolta come sempre 800240024 fino alle 16. Allora, c'è chi scrive: anche l'Inter nell'era Conte ha sfondato il muro dei 100 punti, in 3 anni ne ha beccati 101 dalla Juve. Al di là di questo messaggio, voglio leggervi una cosa. E questo cubitale 102 bianconero al fascino misterioso di una creatura mai vista, è un meteorite precipitato sulla Terra, se ne parlerà per decenni, forse finché la gente avrà voglia di giocare a pallone, finché esisteranno campionati e squadre. È l'Everest, più in alto, caro Maurizio Crosetti, non si va. Ma bello, bello questa roba qua. Ti piace? L'hai fatto tu? No, un mio amico, te lo presento un giorno. Un Rai Juve. Sono d'accordo. No, non è un Rai Juve, è la Repubblica di oggi, Pardo. No, fa il bravo. Benissimo, dai. Dai. Senti. Crasetti. Era meglio la mia Juve. Era meglio la sua Juve? Però il campionato in cui giocava la sua Juve, mister Capello, era un po' più allenante, o sbaglio? Era molto più allenante, bravo, hai fatto bene a sottolinearlo. Sì. Punto di vista tecnico-tattico, va bene. Era più allenante, poi c'erano anche altre cose. Ignazievic! Scusate, ho da fare con Ignazievic. Maurizio l'abbiamo perso, Pardo ce lo siamo giocati. No, ma senti, prima parlavo con Pierluigi dell'incoronazione popolare di Re Antonio e dicevo, non è dato sapere se la Juventus abbiano gradito oppure no. Pierluigi ha detto, vabbè, non, questo sospetto esiste sempre, però non è che saranno stati colpiti più di tanto da questa manifestazione, questa colata lavica di affetto. No, non entra nei contratti, l'affetto e le colate laviche nemmeno. Certamente è un aspetto della questione, perché se la Juventus e Conte si separeranno, il confronto di questa Juventus con quella che verrà e del nuovo allenatore che verrà con Conte sarà inevitabile dal primo secondo della prossima stagione e non sarà facile da gestire. È una delle ragioni per cui forse sarebbe meglio lasciar perdere le nuove idee, no? Però la Juve vorrebbe tanto continuare, Conte che mi sembra che non sia tanto di quell'idea. Ma io la mia sensazione è uguale a quella di Sara, un'ascoltatrice che come al solito ci vede benissimo, scrivendo: Conte resta la Juve perché non ci sono alternative da entrambe le parti. Anche la mia sensazione è questa qui, Pierluigi. Sì, ci può stare. Le alternative, in realtà, secondo me il quadro delle alternative sarà più chiaro fra qualche giorno, perché aspettando la finale di Champions League, insomma, si stanno chiarendo alcune situazioni, alcune posizioni. Io credo che ieri girava, ero a Torino e c'era un clima frizzantino prima della gara, sembrava che potesse arrivare. Cos'è, motorino? De Laurentiis che sta passando? No, sono gli ultimi tifosi della Juve che sgommano su via Roma, dove io mi vanto di avere la redazione. Da dove in questo momento vi sto parlando? Ecco. Non male, con tutto rispetto per Cologno Monzese, ma insomma, voglio dire. È un'altra cosa, eh? Però per carità, ringraziamo anzi l'editore. Bellissima, sai che ti dico, c'è più parcheggio, sta meglio. Sì. Vabbè, no, a parte questo. E si vede sempre il mare, dai. Esatto, si vede il mare di Segrate. No, io ieri c'era questa atmosfera, sembrava che potesse arrivare l'annuncio addirittura, o comunque che tutto fosse risolto. In realtà poi le dichiarazioni di post partita hanno un po' ribaltato questa sensazione, perché Conte, insomma, non è che si sia lasciato molto andare. E quindi diciamo che anche la mozione degli affetti, la spinta che gli è arrivata sicuramente dal campo, dalla curva, che praticamente ha tifato più lui che Juve ieri, praticamente sembrava veramente un tentativo di seduzione in piena regola, alla fine non ha portato a nessuna apertura vera e ufficiale, cioè mi sembra le posizioni siano distanti. Poi, come ha sottolineato ieri Conte in conferenza stampa, c'è un contratto innanzitutto, c'è un contratto fino al 2015 che comunque, insomma, fino a prova contraria potrebbe essere rispettato. È chiaro che è molto improbabile che non ci sia un rinnovo, cioè o c'è separazione o c'è il rinnovo, è abbastanza difficile, sarebbe pericoloso lasciare in scadenza Conte. Ah, la cosa più pericolosa in assoluto, secondo me. La cosa più pericolosa, sì, appunto, la cosa più pericolosa in assoluto. Quindi io credo sinceramente che le posizioni siano ancora distanti, che Conte non sia convinto, al di là dell'affetto enorme, però che alla fine, come diceva la nostra ascoltatrice con il messaggio, poi io non credo che rinunci a dei soldi per farsi un anno sabbatico. Ma no, ma figurati, ma poi è sulla cresta dell'onda in questo momento, cioè non, un anno sabbatico sinceramente non avrebbe alcun senso. Maurizio, piuttosto io leggo da più parti il nome di Mihajlovic, ma secondo te a te risulta? Ha un senso? No, sì, è un nome che è stato fatto alle Physique du Roll, non gliene frega niente delle pressioni, della piazza, dell'obbligo dei risultati, ha una corazza spesa così, è un buonissimo allenatore, ha fatto giocare sempre bene le squadre che ha allenato, ha esperienza internazionale, è un po' interista, questo forse per la Juve non va tanto bene, ma insomma sì, è un nome che si è fatto e sicuramente un sondaggio c'è stato, ma Conte viene molto prima di tutti, non credo che siano così già così avanti da aver deciso che il prossimo allenatore sarà Mihajlovic. Loro sperano ancora che Conte cambi idea e nel caso Mihajlovic è una delle possibilità. Ah. A te piace, ti intriga per la Juventus questo nome, Pierluigi? Cioè può essere la soluzione corretta questo nome? È una scommessa. Con tutto il scommessa? Scommessa? Beh sì, nel senso che a me piace, sta anche molto simpatico, è venuto ospite a Tiki-Taka, quindi un voto in più. Sì. A parte le battute, ha fatto un gran lavoro. È ovvio che... chiaramente non prendi un allenatore, non prendi Klopp, ecco, non prendi un allenatore che in questi anni sta guidando squadre vincenti, prendi un ex selezionatore della Serbia che ha fatto molto bene quest'anno con la Samp, cioè è una scommessa, è una bella scommessa, sicuramente dal punto di vista caratteriale è un grandissimo personaggio e potrebbe avere tutti i requisiti per essere un nuovo Conte, nel senso che mi sembra un po' sulla stessa linea anche proprio come comportamenti, come approccio psicologico con i giocatori o come Simeone, insomma, tanto per citare quello in questo momento più amato e di maggior successo. Quindi le caratteristiche sembrano esserci, però ecco, chiaramente non prendi un allenatore che in questo momento sta facendo cose straordinarie da altre parti, prendi un allenatore che si deve cimentare con una squadra dove dovrà vincere a tutti i costi, perché come diceva Boniperti, no? Mm-hmm. No, no, questo certamente. Questo certamente. Scelta rischiosa, però può essere, come diceva Maurizio, alle Physic Duro, bastardo abbastanza, inside, come uno che è capace di sopportare le pressioni, quindi non frega niente della piazza dell'opinione pubblica, e nemmeno eventualmente di una eredità pesante come quella che potrebbe lasciare Conte, anche se resto dell'idea ormai che si tratti solo di aspettare che ci dicano ok, Conte rinnova, resta, perché non sinceramente non lo vedo via la Juventus in questo momento, non ci sono più i segnali. Riflettevo però piuttosto, Maurizio, sul fatto delle scelte quasi aritmetiche di Prandelli per la sua nazionale: miglior difesa del campionato in blocco, come è giusto che sia, e miglior attacco di questo povero campionato che dici tu, che è quello del Torino, che deve solamente 35 gol come Cercè Immobile. Indubbiamente, dimenticando l'ultimo secondo di Cerci, che però è perfetto, è granatissimo quell'ultimo secondo, perché non si poteva immaginare nulla di più granata. È nell'iconografia, nella storia, nell'interpretazione dei ruoli, cioè è perfetto. Se lui avesse segnato quel gol, il Toro avrebbe smesso di essere il Toro, no, e Cerci non poteva distruggere la storia granata, non poteva buttare via il sentimento del torinismo, e lui è stato coerente. E io credo che tutti i tifosi del Toro debbano essere, io non faccio parte sia ben chiara di questa schiera, perché già mi dicono no, la mia mamma sì, poverino, non ho ancora avuto il coraggio di chiamarla ieri sera, spero di non essere orfano nel frattempo, spero di averla ancora una mamma. E comunque, appunto, credo che sì, certo, a parte le battute, l'attacco del Toro è quanto di meglio in Italia si sia visto quest'anno, e speriamo che continuino a mantenere la forza, la voglia, l'intuizione e anche un po' più di abilità dal dischetto, perché in nazionale si può anche non essere del Toro, bisogna dirlo a Cerci, non il capitano, non è un rigorista della nazionale, non si sa mai, perché vediamo in finale i rigori e l'ultimo rigore lo tira a Cerci. Certo, no, che poi tutto questo capita nel giorno in cui Immobile è squalificato, anche questo molto granata, Pardo. Certo, ma lui se l'ha fatto squalificare apposta, perché se no hai visto mai che se giocava faceva il gol e il Toro passava, no? Certo, no. Certamente. Sì, Cerci è diventato ufficialmente un giocatore del Torino ieri sera. Questo da ieri sera Cerci intoccabile, idolo granata. Ovviamente profondissimo, credo che sia stato un verdetto veramente doloroso, al di là dei meriti del Parma che ovviamente vanno sottolineati. È molto difficile, secondo me, stabilire se sia stato più bravo Donadoni o Ventura in questa stagione, se sia stato più forte il Parma o il Torino. Però questo tipo di epilogo, per come si è consumato, mi sembra che sia veramente, veramente doloroso. E poi credo che il Torino durante la stagione qualche punto per strada l'abbia perso, insomma. Adesso non ho fatto il conteggio dei torti a favore arbitrali del Parma, però credo che il Torino abbia avuto una spettacolarità ancora superiore. Il Parma è stata molto solida, 17 risultati utili consecutivi, la redenzione di Cassano, la normalizzazione di Cassano, sempre più uomo squadra e sempre non meno genio, perché le cose geniali le ha fatte comunque, no? Però è diventato un giocatore comunque più affidabile, sul quale puoi, più normale, ma nel senso anche buono del termine, sul quale puoi fare affidamento. Lo scrivi, Maurizio, la normalizzazione di Cassano? Beh, no, ma Pierluigi è troppo cassaniano per poter pensare che Cassano si possa normalizzare. Cassano si sta trasformando in qualcosa di più affidabile senza rinunciare alla sua incredibile classe. Lui rimane, questo è il numero che lo porta in Brasile, io credo che andrà alla fine, il miglior distributore di assist e di ultimi passaggi di questo campionato. In assoluto, italiani, stranieri, animali, creature aliene, lui è il più bravo. Quindi al di là di tutto. E poi quest'anno di cassanate non ne ha. No, ne ha fatte. Immacolato. In questo senso forse sì, un po' di normalizzazione. Però io lo voglio tutto intero come sempre stato. Anch'io. Così come avrei voluto in nulla diverso Maradona e ovviamente Cerci. Infatti, io penso che lui palloso come mai Cassano, no, Luigi, no, ti dico questo, adesso dico una cosa anticassaniana, che secondo me c'è un piccolo indizio di cambiamento che è in questi due calci di rigore sbagliati, uno con l'Inter e uno col Torino, che sono cose non da lui. Ne aveva sbagliato uno nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, ma insomma complessivamente Cassano nella prima parte della sua carriera era un giocatore che non aveva paura di niente, era un giocatore che era puro istinto ed incoscienza, e quindi poi faceva delle cose, non aveva mai paura. Oggi è diventato un giocatore secondo me complessivamente migliore, però insomma, ha perso qualche sprazzo fisico ovviamente con il passare degli anni, ha perso secondo me un po' di questa incoscienza. Un concetto secondo me che si avvicina a quello dei piloti, no? Si dice che i piloti fanno un figlio perché perdono un secondo al giro, una cosa del genere. Sì, no? Perché perché chiaramente cominci a pensare un po' di più, e nel piccolo ovviamente del calcio, dove grazie a Dio non rischi la vita nemmeno se sbagli un rigore, però Cassano secondo me questa cosa qui l'ha elaborata, quindi secondo me ha un po' più paura insomma sì, è chiaro il concetto, sì, è meno incosciente, ha perso un po' la forza di quel devastante incoscienza che aveva. Beh, però io sto con Crosetta e i mondiali lo voglio tutti intero, secondo me è un migliore risultato complessivo, cioè meglio un giocatore così di un pazzo criminale come è meglio giocare così. Sì. Un pazzo criminale calcisticamente parlando, che ero, certo. Io e Crosetti ci auguriamo di vedere agli europei appunto tutto intero. Grazie Maurizio. Grazie a voi, evviva. Ciao, un abbraccio, ciao. Maurizio Crosetti. Pierluigi Pardo ovviamente sta con noi. 800 24 00 24, numero verde, vi aspettiamo qui dopo la borsa. Complimenti veramente a tutti. È mancata solo la ciliegina su una torta assolutamente importante, ma credo che il lievito che abbiamo messo in questa torta possa essere assolutamente utile e importante per il futuro di questa squadra. Tutti convocati. Caro Pierluigi Pardo, parliamo con Gino da Modena. Gino, buongiorno. Buongiorno dottore, la ringrazio tanto di avermi concesso. Ma grazie a me, grazie a lei, Dunque, perché ci eravamo sentiti dopo il 7-0 con l'Inter. Sì. E ci avevate già messo in Serie B. Sì. Io ho detto che Noi. Sì, no, dico tutta la stampa in generale. Non generalizziamo, noi no. No. Però le avevo detto che il calcio non è una scienza esatta. Poi noi ci siamo salvati giocando al calcio con un allenatore che invece di fare il solito catenaccio giocava per fare un gol in più degli avversari. Sì. Dando anche spettacolo. Sì. Secondo me i livelli, purtroppo è andato giù il Bologna, che d'Emiliano mi è dispiaciuto. Però se lo meritava. È andato giù. Però era la squadra forse con l'organico peggiore assieme al Livorno. Il Catania secondo me aveva un organico superiore, ma gli hanno girato male, come nel caso succede delle stagioni come l'anno scorso. Il Palermo non aveva un organico da retrocedere, ma è retrocesso. E Sassuolo non aveva un organico da retrocedere, non è retrocesso. Sì, non fa una piega. Lei dice il calcio non è una scienza esatta, però la sua analisi è abbastanza logica, e quel noi ovviamente sta per Sassuolo. Non dimentichiamo che Sassuolo ha regalato anche 5 partite agli avversari, 5 sconfitte. Questo non per colpa esclusiva di Malesani, ma sta nei fatti e nei numeri. Cioè l'allontanamento di Francesco allora fu un errore, che poi Sassuolo ha finito, bravi loro, Pierluigi, per non pagare più di tanto. Sì, assolutamente. No, però il merito di questa salvezza va in massima parte, secondo me, a Di Francesco, e anche, devo dire, la campagna acquisti che è stata fatta comunque a gennaio. Sì. Il Sassuolo è una società che è piccola come bacino d'utenza, chiaramente, ma è una squadra media del campionato di Serie A. È una situazione economica nettamente migliore di molte altre. Ha uno stadio? Sì, ha uno stadio, ha una forza economica diversa, insomma. Qui a gennaio, quando c'era quel tipo di classifica, Sassuolo ha comprato 12 giocatori, il Bologna ha venduto diamanti. Sì. Un momento nel quale non poteva neanche più ricomprare, quindi questo direi che spiega tutto, insomma, no? Sì, poi ha una grande proprietà, eccetera, eccetera, noi lo sappiamo, ovviamente. Oh, chiaro. Fabio Lucca, buongiorno. Ciao, buongiorno dottore. Ciao. Finalmente riesco a parlarvi. No, io sono, premetto, sono un tifoso, non sono sportivo. Benissimo. Come mi hai preferito. So che voi apprezzate la sincerità. Certo. Sono incazzatissimo per quello che è successo a Firenze ieri. E ancora più incazzato nel fatto di non vedere nessuno, tra cui il grande Donadoni, che dice Fiorentina corretta. Cioè, se fosse stato segnato quel rigore al Toro, e meno male che l'hanno sbagliato, meno male, no? Tutti contenti. Dico, ma è da pazzi, ma come si fa? Cioè, era un inciucio, era uno dei più grossi inciuci scandalistici che hanno fatto. Dall'inizio della partita a Firenze sapevano che se finiva così ti davano un rigore pazzesco, assurdo. Nessuno che... Cioè, io lo trovo una cosa vergognosa. Beh, però Fabio, mi fa già capire, lei con chi ce l'ha? Con la Fiorentina? Con tutte e due? Con questa ipotesi di inciucio? Perché rigore era netto, no? Rigore non si discute. Ma no, ma rigore dice al 48esimo, dice rigore non netto, la scivolata di Roncaglia. Roncaglia, che voglio dire, neanche a porta americana dovrebbe giocare. Gli hanno detto te lo devi tirare giù questo. Sì. A Firenze erano tutti sicurissimi che facevano il rigore al 45esimo. Il Parma, Fiorentina corretta, mandate a quel paese. Ma se fosse successo, così capisce anche per chi tifo, no? Sì. E se l'ha immaginato. Sì. Ma fosse successo un episodio a favore della Juve in questa maniera, c'era un'interpellanza parlamentare. Sì. Sì. Concorda un pochino? Ma io la trovo una lettura vagamente dietrologica, però ha senso di cittadinanza, no? Ha diritto di cittadinanza, no, Pierluigi? Poi, non lo so, una volta che hai il rigore, c'è un particolare che mi sfugge, una volta che hai il rigore, ok, allora si vede che non hanno avvertito il portiere della Fiorentina, anche se ci ha tirato male, no? Ma non hanno avvertito neanche Rebic che fa il gol del 2-1, scusate. Rebic che fa il gol del 2-1, certo. Gli dà un assist perfetto. Insomma, io credo che non lo so, io la partita l'ho vista e ormai siamo tutti dietrologi, quindi è chiaro che la sensazione che il Torino a un certo punto dovesse segnare per forza c'era, però c'è anche da dire, secondo me, che la... Che alla fine, se tu vuoi, cioè, allora, sì, la fai in un altro modo. Se vuoi fare biscotto, lo fai in un altro modo. Con un rigore, esatto, no? Esatto. È questo prima, che non mi torna. Prima, quindi, io credo che, come qualche volta succede, insomma, sia stata una partita nella quale una squadra aveva nettamente più motivazioni dell'altra. Il pubblico tifava tutto Torino praticamente perché i tifosi sono gemellati. E questo è, insomma, io poi. Faccio fatica. Non abbiasimo l'ascoltatore perché alcuni pensieri li ho fatti anch'io, ovviamente. Sì. Ma siamo tutti nipotini di Andreotti, dai, lo sai perfettamente, vero Luigi? Però insomma, ripeto, se la Fiorentina aveva perso la partita precedente in casa col Sassuolo, no? Quindi voglio dire, se avesse voluto fare una cosa, se avesse voluto fare la partita al Torino, gliela dava in una maniera molto diversa. Capisce che era combinata soprattutto perché non c'erano giocatori del Toro al limite per la ribattuta, scrive Marco. Un altro Marco da Bologna: ma allora il portiere della Fiorentina è un cretino che ha parato il rigore? Oppure la Fiorentina aveva già regalato la partita a Sassuolo e nessuno ha detto niente. Insomma, questi in ordine sparso alcuni pensieri via SMS. Una cosa. Allora, la Roma ha perso 4-1 a Catania il giorno in cui aveva staccato la spina e poi ha perso con la Juve all'ultimo minuto impegnandosi e ieri senza praticamente giocare. Sì. La Fiorentina aveva perso in casa la partita precedente col Sassuolo. Cioè, alla fine succede spesso che ci siano delle cose che per me non sono necessariamente delle combine, dei complotti. Sono molto spesso anche semplicemente la differenza di motivazione delle due squadre. Io ieri, onestamente, che ti devo dire, non ci ho visto questo. Poi che il Torino attaccasse, che la Fiorentina, sommato questa partita qui, non gliene fregasse nulla, che ci siano stati un paio di retropassaggi ridicoli di giocatori della Fiorentina verso la fine, questo sì. Però poi, appunto, allora Rosati si scansava, Rebic tirava fuori, non lo so. Cerchiamo di non essere, secondo me, più realisti del re, cioè più dietrologi del dietrologo. Sì. Perché... Beh, però no, questo anche secondo me, anche io la vedo così. Cioè, ho visto cose che mi hanno fatto pensare molto di più. Ieri c'è stato un portiere di una squadra che non aveva nulla da chiedere al campionato al 94esimo minuto contro una squadra gemellata che ha fatto una parata. Ha parato rigore. Cioè. Vogliamo interpretare questo come un esempio. Poi possiamo pensare che sia stato un errore, che non si siano messi d'accordo su dove tirare. Però mi sembra. Senti, io però vorrei approfondire questo discorso che mi intriga abbastanza con uno che più granata non si può, come Mario Giordano. Buongiorno a tutti. Direttore del TG4 è molto molto molto molto granata. Abbiamo un attimo il traffico, così poi parliamo con calma senza impicci sonori. Tutti convocati. Cerci si gira, Cerci prova ad entrare in area di rigore. Il suggerimento, Barreto, messo giù a calcio di rigore concesso da Rizzoli. Thank you. Udinese finisce con l'errore di Alessio Cerci dal dischetto. Fiorentina 2, Toro 2. Per chi fa calcio e gioca a calcio sa che può succedere. È successo a Baggio nei momenti più difficili, è successo a Baresi nei momenti più importanti, può succedere anche a Cerci. Del resto solo chi calcia può sbagliare, magari se uno sta in tribuna non sbaglia mai, ma questo fa parte del gioco. Allora, devo dire che Mario Giordano questa mattina ha risposto alla convocazione dell'SMS di Piantanita scrivendo: siamo nati per soffrire. Nell'anno della Juventus di tutti i record, un grande classico dell'erotismo granata, a rigore sbagliato al 94esimo dal tuo miglior giocatore fuori dalle primarie europee, Mario. Nello stadio gemellato che quasi ti fava cioè, sono tutti gli ingredienti veramente, cioè è un romanzo. Del resto, se noi siamo tifosi del Toro, uno ti fa Toro, alla fine io devo dire la verità, ho una atroce sofferenza, quasi dolce però come sofferenza. Lo sapevo. È la sofferenza di chi è abituato, di chi è cresciuto piangendo lacrime sui morti di Superga, sì, su Gigi Meroni, poi se vogliamo stare a cose più cose con la sedia di Amsterdam, i pali, quando riusciamo a ritornare in Europa andiamo ad Amsterdam e prendiamo i pali. Quindi è come dire, cioè abbiamo una tendenza naturale, sì, alla sofferenza. Forse fa parte un po' proprio quello dello spirito Toro, di essere così, cioè la vittoria facile non ci piace, preferiamo questi momenti di dolce sofferenza quasi, sì, alla vittoria con un rigore rubato, per dire, all'ultimo, sì, minuto, e non sarebbe da Toro. E io credo che ieri Cerci sia diventato finalmente un campione di Torino. Esattamente, Pierluigi, è quello che ha detto prima Crosetti, che granata non è esattamente quello che ha detto prima Crosetti. Sì, non ci piace vincere facile, dice da tifoso del Torino, ci sarebbe anche una via di mezzo, no? Ogni tanto, Sì, no, ci sarebbe anche provare a vincere qualche volta. Io non ci ricordo, io ieri ho visto la partita con mio figlio che ha 19 anni e poveretto è tifoso del Toro pure lui, che non ricorda il Toro, cioè la massima esultanza che abbiamo avuto è stato per lo spareggio col Mantova per andare in Serie A, i 60.000 delle Alpi. Ecco, quindi ogni tanto qualche momento di gioia, poter indossare noi la maglia, siamo in Europa, ci piacerebbe anche per rinvenire cose. Però ripeto, io credo che per come è avvenuto, perché non è un rigore, ripeto, sbagliato al 94esimo, dopo che vai sotto, recuperi, hai il calcio di rigore in quello stadio, in quel clima tutto particolare, credo che sia veramente una sconfitta da Toro, che fa ancora di più, come dire, alimenta ancora di più il sogno di questa squadra. E poi, come hai detto prima, come hai detto tu adesso, Cerci è diventato granata ieri sera. Pierluigi, tra l'altro, torno sui mondiali, ci andiamo con l'attacco del Torino come nel 78, Graziani, Pulici, esplose allora Rossi, ovviamente Pablito e non Giuseppe. Se stiamo parlando di scaramanzie, corsi e ricorsi, non è male questa, Pardo. Sì, non è male, ma devo dire che insomma qui è anche difficile commentare, nel senso che è stata una sceneggiatura talmente diabolicamente perfetta, ma in linea con la visione storica del Torino, che quello che è successo ieri, per la maniera nella quale è successo, veramente appunto non ha bisogno di altri commenti, cioè c'era da meravigliarsi se fosse successo il contrario. Sì. E poi bisognerebbe psicanaliticamente farsi delle domande e capire se uno si abitua alla sfiga e quindi chiama su di sé nuova sfiga, se in fondo appunto c'è una componente di erotismo nel sentirsi sfortunati, nel potersi piangere addosso. A me non mi nascondo che non me ne frega niente né del Torino, anzi al limite più del Parma, perché ci gioca un ragazzo, sì, al quale voglio molto bene. Devo dire che per come è maturata mi è dispiaciuto, nel senso che poi appunto non so dire se Parma o Torino delle due, tutte e due meritavano, è difficile dire chi ha fatto la stagione migliore. Sicuramente non la meritava il Milan per la stagione che ha fatto, e il Verona si è un po' disunito alla fine, ma queste due meritavano sicuramente. Ma no, il modo nel quale è successo è veramente molto granata. Io però vorrei anche sapere da Mario Giordano come sta vivendo questi 102 della Juventus con tutto ciò che ne consegue. Questo... Di che cosa stiamo parlando? Non ne sono occupato. Di che cosa stiamo non mi interesso di calcio minore. Non lo so. No, voglio dire, bisogna dire, ha fatto un campionato straordinario e quindi anche qui però c'è questo il primo anno che noi dopo tanto soffrire siamo riusciti a tirare sulla testa e abbiamo avuto dall'altro lato di Torino un campionato stratosferico, cioè inimmaginabile, quindi è inutile ricordare anche qua i corsi storici, 50 punti, 51 eccetera, però questo fa un po' parte della cosa, sono stati veramente grandiosi. Io devo dire che invidio anche e soprattutto quello straordinario stadio che ha la Juve, che mi fa male tutte le volte che passo lì sulla tangenziale di Torino e vedo Juventus Stadium, sto male, mi prendo una fitta al cuore e penso che questo sarebbe forse ora che, visto che il Toro è ritornato anche con tutto il suo carico di sofferenza, ritornasse anche col suo carico di uno stadio tutto suo. Quindi... questo bla bla bla sul Philadelphia che è sempre rimasto a livello di pura chiacchiera demagogica. Può chiacchierare demagogica e qualche gestaccio infelice da parte di qualche esatto. importante. Sì, c'è anche questo, quindi questo è un altro motivo di invidia, oltre naturalmente alla stagione straordinaria fatta dalla Juve. Comunque, ecco, a proposito di stagione straordinaria, voglio dire adesso una cosa controcorrente e impopolare. Fa bene al Torino questo epilogo, perché il viaggio in Europa League era lungo, complicato, sarebbe stato sicuramente divertente, ma appunto il carico di letteralità che dà aver perduto l'Europa così è incredibile. Sì, ovviamente sì. È una provocazione. Però no Pierluigi, hai ragione, devo dire che in parte l'ho pensato anch'io, cercando di medicare le ferite in questa serata e stanotte, stamattina. Però è anche vero che tu sai che abbiamo un grande problema noi, quello di riuscire a trattenere questi due calciatori. Allora io ho detto con un po' di romanticismo che ci appartiene, che Cerci adesso è diventato davvero un giocatore del Toro, quelle lacrime di ieri appartengono ormai alla storia del Torino e quindi appartengono, e io spero che Cerci possa essere un giocatore del Toro il prossimo anno, spero che possa essere Immobile, e avere un palcoscenico europeo secondo me in una fase così delicata era un fatto importante per non dover ricominciare una volta da capo, certo. E questo secondo me, se vogliamo essere razionali e meno diciamo romantici e letterari e più realistici, è vero che dal punto di vista pratico dover anticipare la preparazione per una competizione in cui probabilmente non saremmo andati lontano, al di là della soddisfazione non ci avrebbe dato molto, però ci avrebbe dato forse qualcosa nella possibilità di attrarre grandi campioni. Grazie. Una prospettiva. Grazie, bocca direttore. Grazie a voi. Grazie a Mario Giordano. Senti, ma quel discorso che in un minuto, Pierluigi, poi ti saluto e ti lascio andare a fare il riscaldamento pre-tiki-taka. Ma il discorso che facevi prima sul Torino per il Parma non vale? Ma assolutamente no, ma come dicevo prima, per me veramente fra quelle due era difficile scegliere perché... No, ma al di là dei meriti, cioè non è un pericolo per il Parma questa Europa League? Cioè, no. Tu dicevi, poteva essere un pericolo per il Toro, per il Parma no? No, ma quello l'ho detto soltanto per Giordano, per cercare... ho capito. No, perché appunto giocando sul filo del paradosso, il contributo letterario di immagine che il rigore sbagliato in quel modo ha dato alla storia del Torino, no, è data un'ulteriore lucidata a questo tipo di immagine tremendista e disperata. Per quanto riguarda il Parma, no, bisogna fare bene la preparazione, ma non... Signori miei, io penso che sia, dobbiamo capire quello che siamo oggi, quello che siamo oggi. Nessuno chiede al Parma di andare in Champions League l'anno prossimo. No, certamente, però gli chiede di fare una buona figura onorando quello che si è conquistato sul campo, quello sì. Pierluigi, grazie, ci sentiamo domani. Ti abbraccio. Quote e pronostici. Questa sera scende in campo la Serie B con due match che chiudono il 40° turno. Alle 19 al San Nicola di Bari, i padroni di casa in attesa di compratori cercano punti sul campo per provare a raggiungere il sesto posto che vale i playoff. Vincendo contro la Cittadella questa sera il Bari sarebbe proprio sesto, e allora ecco le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria del Bari contro la Cittadella, è quotata 1,70, l'X al momento è a 3,40, il 2 con la vittoria della Cittadella in casa del Bari è a 5,50. Alle 21 poi altro match molto importante, ci sono in ballo punti chiave anche per la promozione diretta al Francioni di Latina, infatti i padroni di casa che sono terzi ricevono il Siena, nerazzurri che vincendo tornerebbero a meno uno dall'Empoli seconda, e allora l'1, la vittoria del Latina, è quotata a 2,40, l'X è a 2,90, il 2 con la vittoria del Siena che cerca punti, playoff è a 3.30. Queste erano le quote di oggi, noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Tutti, non soltanto Zanetti, perché tutti hanno fatto molto di più di quello che mi aspettassi. Ma se la società ha deciso così, vuol dire che i progetti della società sono adatti a un cambiamento di questo genere, quindi immagino che saranno fatti in termini tali da potersi permettere una cosa così. I giocatori, questi hanno dato tutto quello che dovevano, e qualcuno è più anziano, qualcuno di meno, ma insomma... Adios. Guarda che si impenna, ancora rimessa in mezzo, attenzione, rete, Cambiasso, ha pareggiato l'Inter. Gol da attaccante vero quello di Cambiasso, controlla di petto, si coordina, mezza rovesciata. Volverlo todo negro. Ancora un grande numero, Milito! È tornato 5-0 per l'Inter, una festa per la squadra nerazzurra. Guarda che si impenna, ancora rimessa in mezzo, attenzione, rete, Cambiasso, ha pareggiato l'Inter. Gol da attaccante vero quello di Cambiasso, controlla di petto, si coordina, mezza rovesciata. Bailare mi ultimo tango ya sin ti. Vi amo, vi amo, e ne vedrete ancora qui, e grazie sincere per sopportare ancora un vecchietto di 40 anni a correre sul campo di calcio. Grazie. Puntate estremamente sdolcinate, ragazzi, mi sta venendo la nausea. 800 24 00 24, numero verde, però naturalmente no, sto scherzando, è doveroso. Un'altra pagina di questo finale di campionato è stato l'addio all'Inter di quattro giocatori argentini che hanno fatto la storia dell'Inter e non solo. Samuel Milito, Cambiasso e Zanetti ieri sera hanno salutato e sono pronti per nuove avventure. Beh, Zanetti resta lì, come sapete, farà dirigente. Milito vuole continuare a giocare, Cambiasso probabilmente va alla Sampdoria, Samuel non ho notizie di prima mano, però salutano l'Inter e ieri c'è stato il loro saluto. Voglio però ora parlare di un'altra lezione che non riguarda soltanto il basket, ma secondo me è una lezione che vale ed è molto attuale per lo sport tutto, l'ho detto anche prima, lo ripeto, quella del Maccabi Tel Aviv e del professor Blatt ieri al forum. E ieri sera fu così che tra lo stupore generale di credo di tutto il mondo della pallacanestro fu così che Milano diventò provincia, periferia di Tel Aviv. Ciao Luca Chiabotti. Ciao a tutti. Ciao, senti, l'abbiamo parlato con te, penna storica del nostro giornalismo baschettaro soprattutto, prima di queste Final Four dicevamo vabbè, ma il Maccabi Tel Aviv lo lasciamo lì, vediamo chi tra Cesc e due spagnole si porta a casa l'Eurolega. Io sinceramente una cosa così, di una squadra così sfavorita, così se vogliamo piccola anche in termini di budget speso, e tra poco ti chiedo qual è il budget del Maccabi Tel Aviv per affrontarlo con quello delle altre, perché mi sembra che questa sia la lezione dell'Atletico Madrid e ieri del Maccabi diventato campione d'Europa. Io per trovare una sorpresa così grande nel massimo torneo europeo dei canestri sono dovuto risalire al 91-92, il Partizan di Djordjevic che aveva 24 anni e Danilovic che ne aveva 21, allora ad Istanbul, semifinale vinta su Milano e poi su un'altra spagnola, lo Juventud Badalona. C'è qualcos'altro che ti ricorda quella, tra quella sorpresa e questa del Maccabi? Forse l'anno successivo il Limoges, ma l'avversario, la Benetton dei tempi, non era paragonabile al Real Madrid e al CSKA che si sono trovati di fronte, quelli del Maccabi. Sono d'accordo, era 20 anni almeno che non si vedeva una cosa simile, e devo dire che dopo tanti anni che faccio questo lavoro, ieri sera, per come è stata la qualità della partita, il messaggio che ha lanciato, la bellezza della gente e tante cose, mi sono stato bene, è stata una bella sensazione. Sono ancora quelle cose che emozionano, sì, quando uno pensa di aver visto tutto e quindi di avere un cuore troppo duro. Se ero stato bene è bellissimo, mi sono stato molto bene anch'io, ti devo dire la verità, Luca, perché al di là della sorpresa, cioè Maccabi ha giocato una pallacanestro meravigliosa, perché il Real Madrid sembrava imbattibile e invincibile, perché lo sport è così per fortuna, e poi perché non riesco ancora a capire come il Maccabi possa aver vinto la Coppa dei Campioni. Ma perché io credo che tutto sia cominciato proprio da Milano contro l'Olimpia, perché se Rice, che ieri è stato eletto miglior giocatore e ha segnato 14 punti nel tempo supplementare, che se uno ci pensa è una follia, e questo è un giocatore che l'anno scorso giocava in Germania, poi ha giocato negli Artland Dragons, ha giocato negli Etuvos, ha giocato a questo livello, ha dominato una serie, lo deve al fatto che secondo me ha fatto vincere al Maccabi gara 1 a Milano dei playoff, dopo una partita dominata da Milano, e lì qualcosa è scattato di incredibile in questa squadra, nella sua voglia di arrivare con un avversario punto a punto, sapendo che loro vincono, ed è la cosa più importante di qualsiasi squadra. Senti, andare fino in fondo e sapere di potercela fare. Sì, però cioè, è una squadra comunque di... Cioè, il Maccabi Tel Aviv è un club storico, lo sappiamo, anche molto ricco se vogliamo. Questa mi sembra l'edizione più al risparmio del Maccabi Tel Aviv degli ultimi anni, perché vabbè, Hickman è passato dalle nostre parti, Casale, Monferrato, Pesaro, bravo giocatore, non superstar assoluta. Devin Smith ha fatto un paio di stagioni eccellenti da noi, Scorzalini l'abbiamo visto da ragazzino, Tyus pescato da Cantù era un bravo cambio dei lunghi, Blutenthal è bucaniere di mille battaglie, l'abbiamo visto con la maglia da Fortitudo, molti sono passati dalle nostre parti. Rice no, però non sono superstar, non c'è una sola superstar in questa squadra, e dicevo prima, non, l'ho rubata a te questa, non si vince presentando l'estratto conto, mi hai detto una volta, espressione che uso spesso. Ebbene, questa è una lezione del Maccabi, ma anche al calcio, anche a tutti gli altri. Sì, certamente, anche se poi sui budget bisogna sempre stare un po' attenti, perché in Europa le situazioni sono talmente difficili, per cui dire che i 37 milioni che spende di dollari che spende il CSKA sono dovuti in parte, almeno 10 milioni sono dovuti al fatto che per portare i giocatori a Mosca bisogna spendere di più, così in altre situazioni. Però non c'è dubbio che quella che ha fatto il Maccabi è una squadra normale, è una squadra con un budget paragonabile a quello di Milano, a quello di tante squadre, della quinta squadra russa, della sesta squadra turca, della terza o quarta squadra spagnola, per cui insomma quello che ha fatto è stato veramente una cosa unica e forse irripetibile, ed è bellissimo, perché in tutti questi anni tutti ci siamo sentiti dire che certe cose non si possono vincere, bravo. Perché uno non ha i soldi, non è vero, soprattutto nella partita secca, cioè nella finale che può essere di un Final Four di Eurolega, ma anche di altri sport. Lì conta quello che tu sei in quei minuti, in quel momento, non conta veramente nient'altro. Quindi per rispondere a Conte si può mangiare un ristorante da 100 euro anche con 10 o con 20? Sì, basta andare in qualche bistro di qualche chef famoso, si mangiano le stesse cose e si spende molto meno, ma soprattutto è una soddisfazione tripla quando poi capisci di aver ottimizzato e di aver fatto una cosa veramente, veramente bellissima, ma anche sotto il profilo morale, perché questo è il discorso. Basta, cioè, questa è una squadra vera, una squadra che ha giocato come una squadra, e quello che dice sempre Blatt è: noi sappiamo che non siamo i più forti, sappiamo che dobbiamo essere insieme più forti della somma dei singoli, sì. No, non andiamo da nessuna parte, e questa è la risposta a tutte le gelosie dello star system, come sì, certo. Poi Blatt non lo dice, però hanno anche il miglior allenatore d'Europa in questo momento, perché quello che ha fatto lui è stato veramente magico, credo anch'io. Sottoscrivo. Grazie Luca. Grazie, ti abbraccio. A tutti. Grazie Luca Chiabotti. Capito Conte? Si può mangiare nel ristorante da 100 euro avendone in tasca 10? Si può. L'ha insegnato l'Atletico Madrid, l'ha insegnato il Maccabi Tel Aviv. E adesso vediamo la finale di Champions League sabato. Alessandro Torino, buongiorno. Buongiorno, mi scusi, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. E volevo riprendere un attimo un discorso del Toro, perché è una cosa che mi ha fatto stare male del tifoso di prima, che si sì. chiama tifoso. Noi non vogliamo piangerci addosso, scusi l'emozione, sarà la prima volta che telefono. Non vogliamo piangerci addosso, però io ogni domenica vado allo stadio a vedere, noi non ci siamo mai lamentati di tutti i torti arbitrali che abbiamo avuto. Due giorni prima della partita importante col Parma è sputata la storia di Immobile che è venuto il Borussia Dortmund a bussare a casa Juve. O Gagliani che parlava direttamente della storia. C'è solo il Parma nella finale di negli scontri diretti per andare in UEFA, noi non ci hanno mai calcolato. E poi il tifoso di prima ci viene a dire che noi abbiamo praticamente la partita era combinata dopo tutto quello che abbiamo passato. Invece di dire il Toro ha fatto una bellissima stagione, ha fatto un bel calcio perché ma l'ha fatto, che avevamo. Ma l'ha fatto, ma è tutto sacrosanto, Alessandro. Quello che mi ha dato solo fastidio del tifoso, tutto quanto si stabilisce all'ultima partita con la Fiorentina perché siamo gemellati. E tutto a buttare tutto quello che abbiamo spassato noi quest'anno, non è per piangerci addosso. No, ma non è così. No, però Alessandro, per ridimensionare un po' la rabbia, cioè in questo momento non vale prendersela, secondo me, con gli arbitri, con i torti, con le congiure di palazzo, con tutte queste cose, perché non c'è niente di più semplice, se vogliamo, di crudele, ma anche di più emozionante di un tuo giocatore che al 94esimo sbaglia un rigore, quindi tutto il resto sta a zero, perché se Cerci avesse segnato quel rigore, i torti arbitrali, le congiure di palazzo, tutto andava, i Galliani, tutti andavano a farsi benedire e il Torino andava in Europa League. Poi lei sa, lo dicevo prima, in questo paese siamo tutti nipotini del grande vecchio, siamo tutti nipotini di Andreotti, e quindi se qualcuno vuole pensare male, se qualcuno vuole pensare che la Fiorentina doveva fare il favore, oggi non ho letto tutti i colori di questi messaggi, la Fiorentina voleva fare il favore al Torino e invece Cerci ha sbagliato apposta sotto dettatura, invece non ha sbagliato apposta sotto dettatura, rimane la sostanza, cioè di un rigore all'ultimo istante del campionato e di un rigore sbagliato che avrebbe dato al Torino l'Europa League. Giorgio da Prato, un attimo perché ho un ospite. Luca Barbarossa, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Luca, ciao. Senti, come va? Molto bene, stasera partita del cuore. Sì. Vuoi parlare come tutti i calciatori, si vince, si perde in 11? Farai di tutto per farti trovare pronto, gli avversari sono una grande squadra e partono favoriti, vuoi dire queste cose qui? Sì, che sono a disposizione del mister, che certo. Comunque è il frutto del lavoro di una squadra, certo, che certe decisioni spettano alla società. No, certo. Ti dirò che, e se invece dovessi dirmi quello che pensi? Posso dire quello che penso, ti dico che penso che Gino Strada ed Emergency siano uno dei più bei made in Italy nel mondo in questo momento. Emergency in questi anni ha curato, in questi 20 anni, perché il ventennale di Emergency ha curato 6 milioni di persone, noi cerchiamo di dare il nostro contributo con questa partita che serve a finanziare due progetti di Emergency, uno purtroppo in Italia, dico purtroppo nel senso che Emergency tutta avrebbe voluto meno che occuparsi di sanità in Italia, ma a Castel Volturno c'è una situazione da anni abbastanza drammatica, il poliambulatorio di Emergency che prima era un poliambulatorio mobile con questa partita e con altre iniziative diventerà invece una realtà fissa, un punto di riferimento gratuito per tutti, per il diritto alla salute che è un diritto inalienabile, certo, che è previsto dalla nostra dalla nostra Costituzione. Poi niente, per quanto riguarda invece note di colore, ci sono due formazioni in campo, per fortuna abbiamo grandi campioni del calcio, del mondo del calcio, da Di Natale a Luca Toni, da Battistuta a Toldo, simboli veri e propri di questa città, di Firenze e della Fiorentina. E non solo, non c'è Renzi, poi... non c'è Renzi, cioè deve venire anche lui. Non ma c'è... Renzi, però devo dire la verità, se posso ringraziarlo, perché in più di un'occasione, a parte che avrebbe voluto esserci, poi ci sono state queste polemiche, sì, che secondo me insomma lasciano un po' il tempo che trovano in un evento di solidarietà. Ma devo ringraziare Renzi in quanto presidente del Consiglio, perché in 23 anni di Partito del Cuore mai un presidente del Consiglio aveva fatto un appello così accorato per convincere i suoi concittadini a partecipare a questo evento. Ieri lo ha rifatto addirittura in televisione, su Rai 1, in diretta, domenica in, questo insomma ci ha fatto molto piacere. Firenze ha risposto molto bene. Anche stadio... se Luca, mi sembra che non avete mai avuto grandi problemi di affluenza di pubblico. La nazionale, cioè questo tipo di partite, la partita del cuore tira di più di un derby. Vediamo gli spalti vuoti in tutta Italia, questo, di solito. Questo grazie innanzitutto al fatto che gli italiani poi alla fine, anche in un momento economicamente difficile come questo, mantengono la loro generosità e si fidano delle persone che hanno guadagnato la loro fiducia. Ma anche secondo me c'è un riscatto di tutti coloro che con un atteggiamento sano vogliono ancora partecipare a una partita di calcio come a una festa, perché è quello che dovrebbe essere. Sì. Negli ultimi tempi, insomma, devo dire che l'atmosfera degli stadi è un'atmosfera lugubre, insomma gli episodi dell'ultima finale di Coppa Italia hanno fatto purtroppo il giro del mondo, qualcuno ne ha fatto le spese in termini di schioppettate e di pistolettate, siamo arrivati alla frutta e le partite della Nazionale Cantanti sono partite dove bambini, dove persone normodotate, disabili, famiglie intere possono partecipare, sapendo di partecipare a qualcosa, di diventare, come spesso ho ricordato, una sorta di azionisti della solidarietà. Sì, certo, perché poi questi progetti, senza il biglietto, senza l'SMS, posso ricordare il numero dell'SMS? Certo, poi ne ricordo questo numero, poi io ricordo un altro paio di numeri prima di salutarti, vai. 45503 per finanziare questi due progetti di Emergency, uno in Sudan, uno a Castel Volturno in Italia. E è l'SMS che si può fare e da telefono mobile e da telefono fisso. Telefono mobile 2 euro, da telefono fisso fino a 10 euro, 5 o 10 euro. E per chi non potesse trovarci stasera all'Artemio Franchi di Firenze. Senti, i numeri che voglio ricordare io invece sono questi per salutarti: 257 presenze, 203 gol. Luca Barbarossa, nazionale cantanti. Senti, no, sono arrivato a 220 gol, perché stanotte ho approfittato del fatto che non c'era nessuno all'Artemio Franchi e sono andato a fare un po' di gol in assenza di avversari. Sì, no, sono gol che ricordo tutti con grande affetto, perché sono gol che hanno significato progetti, sì, progetti realizzati, tangibili, che sono lì e che sono realtà che tutti i giorni operano. Che siano stanze sterili al Gaslini di Genova, che siano reparti pediatrici al Meyer di Firenze, che siano altre realtà che abbiamo supportato in questi anni. Quindi sono gol che assumono tutt'altro. Vediamo stasera, vediamo stasera se il tassametro continuerà a correre, caro Luca Barbarossa. Ciao. Non mi mettete pressione, dai, non fare il calciatore a tutti i gol, mi mettete pressione. 203 gol, 257 partite, altro che Toni, Di Natale e tutti quegli altri che giocheranno lì stasera. Grazie Luca. Grazie a voi. Bocca al lupo. Ciao Luca Barbarossa, Giorgio da Prato, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Guarda, io ricordo qualche anno fa una Juventus all'ultima giornata che aveva bisogno di vincere a Siena, al nono minuto del primo tempo, Siena 0, Juventus 3. Questo dovrebbe ricordare all'amico juventino di prima che quando una squadra vuole perdere o far vincere un'altra, ci riesce benissimo. Ci sono modi un po' più semplici, questo sono d'accordo. Ecco, scusami, ci tengo a dire un concetto. Quella telefonata assurda peraltro, però è l'emblema di come noi Viola e i nostri fratelli Granata si sia orgogliosamente diversi da loro, perché ieri sera ti assicuro che allo stadio, quando c'era stato il rigore del Torino e tutti, anche noi Viola, speravamo che lo segnasse, nell'aria però si sentiva e eravamo sicuri che l'avrebbe sbagliato, perché quello fa parte della sofferenza loro, della loro storia sofferta, della nostra storia sofferta, che ci rende orgogliosamente diversi da tutti i gobbacci. Ti saluto. Questioni di DNA, se vogliamo toccarlo un po' più, in maniera un po' più delicata, questioni di DNA, dice Giorgio da Prato. Tutti convocati. Dunque, prima di tornare agli ascoltatori, Maurizio da Roma, Gianni da Milano, li vedo già in linea. Prima di questo però vi voglio far sentire, anche perché è cronaca, la signorina Barbara Berlusconi, o Lady Barbara se preferite, stamattina presentazione della nuova sede rossonera in Pompa Magna, ovviamente tanti gli argomenti soprattutto sul futuro del Milan. Quanto al presente è quello della, il sentimento dominante non può che essere quello della delusione. Sì, questa ragione lei, è stata una stagione molto deludente per noi milanisti, ma io penso che noi abbiamo il dovere morale nei confronti di tutti i nostri tifosi di metterci subito al lavoro e di poter garantire e di poter far tornare il Milan ai livelli che merita. Di conseguenza, appunto, sarà molto importante l'anno prossimo la strutturazione della squadra da un punto di vista tecnico con le vittorie in campo, e da un punto di vista commerciale invece sarà importante poter portare avanti nuove iniziative come questa. Casa Milan è il segno che la famiglia Berlusconi non molla, anzi raddoppia. Esattamente, noi non abbiamo nessuna intenzione di lasciare l'impegno del Milan, per noi è una questione di cuore e speriamo di poter andare avanti con investimenti sia da un punto di vista sportivo sia nel commerciale per riportare il Milan allo splendore che merita. Dichiarazioni di intenti dunque della signorina Berlusconi, ma ciò che interessa in questo momento, ovviamente come ben sapete, è il nome del nuovo allenatore. Ma sarà poi un nuovo nome? Saranno i giorni giusti per capire anche il futuro tecnico del Milan, perché poi si parla anche di quello. Sì, certamente, io però oggi vorrei tenere la concentrazione su questa meravigliosa inaugurazione di questo spazio dedicato a tutti i nostri tifosi, e queste saranno appunto scelte che faranno mio padre, il signor Gagliani, nelle prossime settimane. Quindi, boh, chi lo sa, si vedrà. Penso lo scopriremo presto però, perché credo che gli appuntamenti siano dietro l'angolo, quelli decisivi. A proposito, le nostre iniziative, maglietta come sempre anche oggi per il migliore in campo, che tra poco arriverà, cioè il migliore tra gli ascoltatori che sono intervenuti, e oggi volendo potremmo andare avanti sulla scorta delle polemiche che si stanno accendendo, vedo gli sms, tra juventini e fiorentini dopo la telefonata di prima, che manco è la fiorentina, la bistecca dell'altra volta, tra rimpallata tra le due società. Comunque, se volete continuiamo, è anche in voce 800240024, non c'è problema. Migliore in campo la maglietta dunque, e poi convocato per un giorno, aspettiamo vostri file audio della durata di un minuto sul tema della settimana, che quale può essere? Pagellone della Serie A, dai ragazzi, mandateci file audio che poi vi diamo la maglietta autografata e potete venire a ritirare qui ed essere convocati per un giorno ai nostri ospiti qui a Radio 24. Maurizio Roma, buongiorno. Ciccio. Buongiorno, dica. Grazie di essere stato convocato dopo numerosi tentativi falliti. È atteso in linea, comunque sono felice di poterle parlare. Dica. Allora, io l'avevo detto a chi mi ha preso la telefonata, la redazione, che la proiezione appunto della Juventus in Champions. Poi, se me lo permette, vorrei dire un'altra piccola cosa. Allora, io vi ascolto molto e le vostre considerazioni mi intrigano sempre, però faccio un discorso generale, non riferito solamente a voi. Allora, se la Juventus o chi per lei, in questo caso anche la Roma e il Napoli il prossimo anno, devono competere, perché se non competono in Europa sembra che è un fallimento da tutti i punti di vista. Bene, io voglio dire, fino a tre giorni fa si parlava che Pogba sarebbe stato venduto, adesso ho sentito cominciare la litania su Vidal. Faccio l'esempio della Juventus, perché ha vinto il campionato per la terza volta, 102 punti, eccetera, eccetera, no? Che ne dicano gli anticobbisti. Detto questo, appunto, se il Real Madrid e tutte le altre squadre che lei sa meglio di me, quindi non faccio il faccende, non faccio l'elenco, possono avere dei budget di spesa fino a quando non interverrà per davvero questo calmiere che ha introdotto Salvini, c'è uno squilibrio, come se nel campionato italiano, faccio un esempio, una squadra che è arrivata quest'anno decimo, undicesima, che appunto volesse competere con la Juventus. Sì. Non è proprio così grande la sproporzione, ma poco ci manca. Beh, insomma, magari con il Napoli, con la Roma, hanno investimenti chiaramente inferiori rispetto a quelli dei top team europei, però Maurizio, abbiamo finito adesso di dire che in questa stagione, guarda caso, stiamo ricevendo delle lezioni di segno diverso, quelle dei peones che prendono a calcio in sedere i ricchi. Abbiamo visto con l'Atletico Madrid sabato in campionato, in un confronto diretto peraltro in casa di una squadra molto ricca, no? Atletico Madrid in casa di Barcellona si è portata a casa l'oro, ok? Ieri sera, ne stavamo parlando un minuto fa con Luca Chiabotti, abbiamo visto il Maccabi Tel Aviv che ha un budget normale, paragonabile nel calcio a quello dell'Atletico Madrid, che ha alzato la coppa più importante che c'è nell'Europa del basket alla faccia del Real e del Barcellona e del CSKA di Mosca e di Milano battuta precedentemente. Insomma, anche queste sono lezioni di cui bisogna tenere conto, perché ripeto, è vero, i denari fanno tante cose, compresa magari la felicità, però non basta presentare l'estratto conto per vincere le coppe. In linea? Sì. Sì, allora lei ha detto ancora giunto quello che avrei voluto dire io, però sottolineiamo che questi Borussia Dortmund eccetera eccetera sono casi appunto sporadici, nei quali comunque bisogna tentare. Sta di fatto comunque che lei ha perfettamente ragione, la ringrazio per la risposta. Un'ultima piccola postilla, voi avete parlato molto dopo la finale di Coppa Italia della violenza negli stadi, si è ripetuto uno spettacolo secondo me osceno anche nella festa della Juventus di ieri. La gente, secondo me, mascalzoni, ai mascalzoni non dovrebbe essere concesso di sfasciare uno stadio che è una perla in Europa e nel mondo. Sì, però ieri, Maurizio, hai ragione, però abbiamo avuto anche una risposta da parte di tutti gli altri, no? Che non hanno voglia di essere ostaggi o di appoggiare con il silenzio certe cose, come solito striscione idiota, ma ormai è una battaglia politica, no? Tra molte virgolette politica, tra ultra inneggiante di nuovo a spaziale, libero, tutte queste cose qui, però c'è stata questa porcata, però in compenso c'è stata finalmente, non dico che qualcosa sia cambiato, ma la registriamo per la cronaca e la mettiamo lì, c'è stata finalmente una reazione decisa da parte di tutti gli altri che dicono no, aspetta, tu metti quella cosa e io manifesto il mio dissenso, che è il modo più civile che c'è, quindi è vero c'è stata questa cosa, ma dall'altro lato c'è stata anche finalmente una reazione, vediamo se avrà un seguito, staremo a vedere se avrà un seguito. Dubito, dubito. Gianni, Milano, buongiorno. Grazie Maurizio. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Dica. Grazie per essere stato. Io volevo parlare dell'Inter un secondo. Prego. Ma, non hanno fatto firmare, o meno, non gli hanno fatto firmare il contratto a Cambiasso o a Samuel, per dopo il calciomercato Mazzarri vuole portare Di Maggio e Zunica all'Inter, uno che è un anno che è fermo e l'altro che è mezzo decrepito, ma noi facciamolo su succursale del Napoli. Di Maggio era Joe, ex marito di Marilyn Monroe, nonché superstar del baseball, Di Maggio. Maggio invece è un'altra cosa, magari va anche ai mondiali, lo conosciamo bene, però Gianni, insomma, va bene l'affetto, la riconoscenza, cioè, ma ogni tanto bisogna anche cambiare. Credo che la scelta di abbracciare per l'ultima volta, se vogliamo proprio essere romantici fino in fondo, gli argentini, abbia sia giusta, sia corretta da parte dell'Inter, che bisogna anche girare pagina anche come faccia, come immagini, no? Partito il bellunese dell'Europe Car, che viene adesso affiancato da Peter Benning, rischiano quasi il contatto i due, passa Peter Benning, passa l'olandese della Orica Green Edge, va a vincere a Sestola la seconda vittoria al giro per Peter Benning dopo quella di Orvieto nel 2011, per Davide Malacarne un piazzamento, purtroppo ancora una volta un secondo posto beffato questa volta da Peter Venning. Ferragosto Stagi dal Giro d'Italia, oggi fai vacanza, eh? Lavori? Non lavori oggi? Lavoricchio. Fa in tubo, dai, diciamo la verità. No, lavora. Fa franella. Anzi, dai, dillo. Si gira per alberghi da stamattina. Sì. Cosa hai trovato negli alberghi? Si vanno a trovare i corridori, E cosa hanno detto i corridori? Si sentono gli umori. Allora? Non ha parlato, però ho parlato con questo compagno di squadra e sta molto bene, molto sereno, tranquillo, e si sta godendo questi giorni in maglia rosa. Il vecchio Ivan Basso fa il sornione, tutti lo danno per morto, e lì Domenico Pozzovivo è già concentratissimo per la crono di giovedì, dove sa benissimo che è uno di quelli che rischia di perdere molto terreno nei confronti di Cadel Evans, però lui dice: l'anno scorso alla Vuelta ho fatto una crono che si assomiglia molto a quella che andrò a disputare, quindi non proprio tecnica adatta agli uomini, ai passisti veloci, quindi spera di difendersi. Diego Ulissi pare che stanotte ha riposato dopo le visite e i controlli di ieri mattina, ed è uno di quelli che sta meglio di tutti, perché due vittorie già al giro non è male, e ha un punto importante anche in classifica generale. Anche lui è curioso di vedere nei prossimi giorni come reagirà il suo fisico in queste due settimane che restano per arrivare a Trieste. Quindi ma siamo ancora in fase ascendente, quindi mi sembra che la situazione sia ancora... No, il giro in verità incomincia, non è retorica, ma comincia giovedì. Sì. Comincia giovedì con la crono. Con la crono, e ricordiamo che Cadel Evans, dopo, che porta la maglia rosa, con quell'attrezzo ci sa fare abbastanza. Pier Augusto, stai in linea, che ho il traffico, poi facciamo altre due chiacchiere su questo giro che comincia giovedì e che oggi riposa e Stagi non lavora. Tutti convocati. Certo che per Augusto Stagi la fase ascendente è stata complicata, è stato uno stillicidio di cadute, polemiche, ritiri, botte, fratture, ferite, mica semplice, un sacco di lavoro per i dottori, raramente ricordiamo una prima settimana e poi sono 10 giorni in realtà di Giro d'Italia così cruenta. Sì, però è che il copione è sempre lo stesso, ti garantisco che nei grandi giri questa è una variabile che diventa una costante, infatti all'inizio la difficoltà nei grandi giri è quella, devi avere la buona sorte, oltre che le buone gambe e una grande concentrazione, perché si è in tanti, 200 corridori, tutti vogliono far bene, certo, vogliono mettersi in moto. Poi tornando al discorso dell'altro giorno che facevamo, che è anche interessante, quando dicono i corridori dovrebbero stare attenti, dovrebbero rallentare, eccetera, però l'altro giorno facevo il parallelo con i piloti di Formula 1, quelli del moto mondiale, eccetera, questi quando li metti su una bicicletta devono andare forte, vanno forte, poi devono andare vanno piano. Vanno forte, certo, ma poi abbiamo visto della caduta di Cassino, quella della grande polemica, della rotonda, sono caduti in testa, la verità, quindi bisogna stare tutti davanti perché è più sicuro. Esatto. Però se tu c'hai la rogna, detto come va detto, no, perché poi quelli ma è sbagliato usare le ruote con 9 atmosfere, il profilo alto, ci sono squadre come la squadra di Scinto, così non facciamo pubblicità allo sponsor, però la squadra di Scinto è uscita indenne e aveva gomme gonfiate a 9 atmosfera, ruote in carbonio a profilo alto, se ti va bene dopo fai il figo, ma certo, se ti va male invece devi andare a trovare le ragioni, come sempre. Ma certo, ma non voglio dire, può starci anche l'errore umano, può starci anche l'errore tecnico, può starci la sfiga ovviamente che ci vede benissimo, però non io non accetto il discorso, però stiano attenti con corridori, no, deve essere tutto preciso, eccetera. Poi può piovere, può essere pericoloso, però tu sai già che questi vanno a canna da quando salgono in bici fino a quando scendono, e mi sembra anche giusto così. E certo, è una gara, è una competizione, come appunto accusare che Cadel Evans, sono a manetta, sono tutti in testa in fila indiana, sono una dozzina di corridori, a un certo punto sentono alle loro spalle il rumore di ferraglia perché c'è la caduta, e sai quante volte succede, e a 11 km al traguardo non è che si ferma, no, basta, scherzando, una grave caduta, basta, vanno avanti e vanno ancora più forte se possibile. Senti, ti lascio al mare di Modena, ti lascio alla alle spiagge assolate di Modena, ok? Sì, sì, sì, bellissima la spiaggia qua. Bellissima. Modena fantastica, c'è un mare. C'è un mare a Modena, mare, che non te lo posso neanche raccontare. Un mare di mare. Venite, venite tutti. Al mare a Modena con Piero Augusto Ostagi, che oggi lavora, giorno di riposo del giro. Ci sentiamo domani, Pier, grazie. Ciao, anzi, ciao, ci sentiamo ciao. Alle 18, perché noi invece facciamo lavorare appuntamento con il giro dopo il giro delle 18, oltre che alla mattina dopo il giro delle 7. Guido, provincia di Grosseto, buongiorno. Guido da Capaglio, al mare, il nostro. Beato lei, e lei si casa, perché lei sì che sta bene. Il nostro c'è la bandiera blu. No, niente, io ho sentito prima quella telefonata da Prato del tifoso della Fiorentina. Io sono tifoso della Fiorentina e vorrei aggiungere una piccola cosa. Nel DNA dei tifosi della Fiorentina ci sta l'amore per la propria squadra e quello stadio pieno per una squadra che poi non vince mai significa solo amore, al contrario dei gobbi che telefonano, fare il tifo per una squadra che vince sempre, lasciamo perdere per come vince, insomma. Però vince sempre, se no si potrebbe parlare del fuorigioco, del pareggio di Yakite a Torino che non era fuorigioco. Sì, Guido, se può parlare di un sacco di cose, stia lì, voglio sentire anche come la pensa Felice da Trani, ma lei stia lì, Guido. Felice, buongiorno. Io sono Juventino. Oh, adesso, benissimo. Allora, microfono a voi, dite quello che volete, io mi levo. Da Trani puoi essere solo Juventino, cioè non lo riesco a capire come uno di Trani può essere Juventino. Io sono toscano e sono per la Fiorentina, la amo la Fiorentina. Questa è la differenza. La differenza è questa, noi abbiamo amore, voi invece non avete amore. Voi siete per una squadra che solo e solamente vince. Guido, fammi sentire felice, così mi diverto tu. Allora, vai Felice, vai. Mi sono appassionato alla Juve perché mi piaceva Zoff. Ah, ho capito. Per com'era. E poi non bisogna sempre dire che la Juve ruba. No, Dio me ne guardi. Non è così. Ha avuto anche i suoi limiti, infatti ho chiamato per fare una piccola critica a Conte. Perché il fallimento europeo, non in Coppa dei Campioni, ma in Europa League, è un po' sua, perché la mentalità sarebbe dovuta essere diversa. Io ricordo una partita dove la Juve è uscita, è stata eliminata, adesso non ricordo se era Coppa delle Coppe o Coppa UEFA, dove perse 3-1 a Barcellona, con un gol di Casiraghi, quindi parliamo dei periodi di dove c'era sulla maglia. Upim, ed erano dei periodi di grande sofferenza, eppure la Juve giocò a testa bassa tutta la partita perché voleva vincere la partita, si voleva qualificare. Mentre adesso non la vede così. Ma io nella partita col Benfica io non ho visto questa. No, non l'ho vista nemmeno io. Voglia. Non l'ho vista nemmeno io. Lei, Guido, l'ha vista questa voglia? Io ricordo Sarti, Robotti e Castelletti. Poi ricordo tante cose, ricordo la Coppa delle Coppe. La risetta, Guido, ma quando no, la Juve... Non solo una cosa, io ricordo anche la finale di Torino, dove l'altro di Coppa UEFA, dove Casiraghi su una televisione a pagamento ha detto che effettivamente il gol fatto dalla Juve in vantaggio era irregolare per una netta spinta che aveva dato lui. Però funziona sempre così. Poi in fondo le coppe le vince la Juventus. No, le coppe neanche tantissimo. Innamorati. Guido, le coppe neanche tantissimo. Vince magari tanti scudetti, ma le coppe di recente non ci va d'accordissimo. Ma lei quando gioca la Juve in coppa, per chi tifa? Per la Juventus, perché la squadra italiana è il ranking UEFA sia benedetto nei secoli. Allora gli spiego, io la Juve normalmente non la guardo. Non la guardo. E non voglio usare, per me non esiste, è una squadra che non esiste. Io non la guardo. Non la guardo perché sennò, però certamente gli dico che la partita col Benfica io non l'ho vista, non la mattina mi sono alzato, ho acceso la televisione e ho brindato quando ho visto che ha vinto quell'altro. Grazie Guido. Grazie Guido, grazie Felice. Oh ragazzi, vi aspetto qui domani, perché io mi sto divertendo molto a sentire voi, quindi domani vi chiamo, vi metto lì, spengo il microfono. Oggi il migliore di oggi è Gino, buongiorno. Buongiorno dottore, la ringrazio tanto di avermi concesso. Ma grazie a me, grazie a lei, Comunque, perché ci eravamo sentiti dopo il 7-0 con l'Inter. Sì. E ci avevate già messo in Serie B. Sì. Io noi. Ho detto che noi. Sì, no, dico tutta la stampa in generale. Non io generalizziamo, noi no. No, però le avevo detto che il calcio non è una scienza esatta. Poi noi ci siamo salvati giocando al calcio con un allenatore che invece di fare il solito catenaccio giocava per fare un gol in più degli avversari, sì, dando anche spettacolo. E allora, al migliore in campo di oggi, una maglietta di tutti i convocati, Griff prestigiosissima e molto ambita, ma ce n'è una al giorno per voi, per il migliore in campo ogni giorno, e poi per chi ci manda il file audio, argomento della settimana, pagellone della Serie A, anche se io ne avrei inventati di altri più cattivi, di argomenti, perché molto carichi i ragazzi, come avete sentito. Comunque mandate il file audio, pagellone della Serie A, file audio durato di un minuto, e poi vediamo chi viene qui a ritirare la maglietta. Noi torniamo domani, anche voi tornate domani alle 2. Franco Piantini, autore di questo programma, Claudia Schiattone in redazione, Filippo Aureggi in regia. Ciao a tutti.